Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Aggressione di Garcia e tentativo di dargli uno schiaffo nel tunnel degli spogliatoi. Si stanno avviando nel tunnel che non viene allungato, non si sa bene se non viene allungato per pigrizia o perché non si allunga, ormai non si riesce più. Sulla sinistra del tunnel vedete c'è uno Stuart col collo di pelo, di pelliccia, e lì Garcia che parla con lui. È coperto dal corpo dello Stuart, non si capisce bene cosa faccia. Chiedendo da parte del nostro staff tecnico agli inservienti di campo era di far uscire il tunnel che serve proprio a proteggere da eventi di questo tipo, da lancio di oggetti. A quanto pare non si poteva fare, non è stato possibile, non si capiva perché, si è creato un po' di tensione per questo, cioè il tentativo di proteggere i nostri giocatori. Come avete visto, Strootman ha anche preso una bottigliata, però non ha anche monetine, quindi era un momento pericoloso. Per noi è tutto è finito lì. Poi veniamo a scoprire che uno steward del Genoa ha rilasciato una dichiarazione spontanea alla Procura federale, che non ha visto nulla nei soggetti presenti in campo, e sulla base di questa dichiarazione Rudy Garcia avrebbe tentato di dare uno schiaffo ad uno steward, e per questo si prende 2 giornate. Quindi da oggi abbiamo introdotto una nuova prova, la dichiarazione spontanea di uno steward, che non è neanche un soggetto tesserato. Un'imprecazione al mentre uscivo dal campo, perché basta vederlo, non è che è agli occhi di tutti. Per quanto è successo a altre persone non posso rispondere e non devo rispondere. 2-1 per Garcia in questa surreale vicenda di giustizia sportiva. Buongiorno Giovanni Capuano, oggi qui con me. Buongiorno, io ho la proposta che risolve tutto. Dobbiamo istituire la Tunnel Light Technology. Tunnel Light Technology, così visto che siamo arrivati alla moviola dell'ingresso bocciata, in tunnel. Costa troppo. Abbiamo fatto troppo. Tutto, non servono neanche gli assistenti di Finger, costa troppo. Perché quelli c'erano ma non viene? Hanno visto quanto nulla. Viene? Non lo so, basterebbe mettere un 3-4 telecamere, però anche dentro, perché tutte quelle immagini lì di cui abbiamo sentito la descrizione minuziosa in realtà riprendono l'ingresso da fuori, poi ci sono 2 gradini e chissà se è successo qualcosa sotto, chissà. Franco Piantanini, il nostro autore, con questa copertina un po' da brivido, mentre la vicenda è molto interessante, anche grottesca, come ha detto Baldissoni, con il quale io sono, lo dico subito, tendenzialmente d'accordo, salvo quell'inciso vicenda grottesca useremo la clava, lì non si è capito bene cosa volesse sì, dire. C'è anche un altro particolare che non torna di tutta la descrizione di quel pomeriggio e di quei momenti, ad esempio che Baldissoni abbia negato la presentazione agli ispettori della Federcalcio dei tesserini di riconoscimento di tesserati sì. della Roma. Secondo me questo fa passare la Roma dalla parte del torto, nel senso che siamo veramente alla base dell'accettazione delle regole comuni. Se tu sei per strada e un carabiniere ti chiede la carta d'identità, Carlo Genta, tu cosa fai? Gliela dai, perché questo prevede la legge. Sì. Poi dopo discutiamo con le dovute maniere. Resto, Me la deve chiedere con le dovute maniere, perché anche è capitato di avere delle questioni. Comunque. 800240024, numero verde Gianmarco Ferronati, regia Daniele Bonamici in redazione. E allora i contorni, è una vicenda che non ha niente di chiaro al momento. Tunnel di Genova, cose che volano in campo, questo documentato dall'immagine, bottiglietta Strootman, da quelle gradinate volava giù di tutto. Questo benedetto telone deve uscire per proteggere i giocatori, non esce. Può essere che Garcia sia andato lì dall'addetto al telone e l'aveva preso e ha detto: oh, ma lo tiri fuori sto coso, non vedi che ci stanno tirando di tutto. Morale, parapiglia, si vede questo telone scosso e non si vede nulla, non si vede uno schiaffo, non si vede tanto meno lo sputo, però ripeto, esatto. Siamo in una linea d'ombra, perché ombra, 30 centimetri dopo è buio pesto e le telecamere non mostrano nulla, poi, quindi può essere tutto. Può essere tutto. Poi c'è sempre questo steward che dice: ho preso anche uno sputo in faccia da uno con la tuta della Roma, però non lo conosco, non so chi fosse. Da qui la richiesta della documentazione dei tesserati per poter procedere all'identificazione. Roma dice: no, non ve li do, 20.000 euro di multa. Questo è quanto. Dall'altro lato c'è Allegri, che abbiamo poi sentito, ma qui mi sembra una vicenda più chiara sulla quale non mi soffermerei più di tanto. Fatto sta che è un momento non felicissimo per la giustizia sportiva. Allora, Tavecchio archiviato per Optiboba, ammenda a Lotito per l'occhio storto di Marotta, ma quello è strabico, vabbè, fa niente, ammenda insabbiato, non ci prendiamo neanche la briga di dargli un buffetto di squalifica. Ferrero sul Toir Filippini invece, oh, Ferrero, Ervi Peretta, 3 mesi e ammenda, e lui non ci sta, si incerotta la bocca. La verità è che con la vicenda di Genova, se davvero Garcia, allenatore della Roma, è stato squalificato per 2 giornate sulla base esclusiva della dichiarazione spontanea di uno steward soggetto non tesserato, il precedente che si viene a creare è scivolosissimo. Precedente è scivolosissimo, tra l'altro a Roma in queste ore sta girando l'indiscrezione secondo cui il capo degli steward del Genoa ci starebbe ripensando, starebbe valutando se modificare leggermente la sua testimonianza. Detto questo, c'è tempo e modo di fare chiarezza. Perché ha preso la mazzetta dalla Roma? Ma no, perché magari semplicemente in quei momenti di concitazione possono essere successe tante cose. C'è anche un aspetto importante in più che andrebbe secondo me analizzato, cioè ad esempio è grave che quel tunnel non sia uscito per tempo, certo, visto che è una misura di sicurezza, e visto che effettivamente le immagini documentano come da quella gradinata stesse piovendo qualunque cosa. Troppo spesso, questo lo raccontano i protagonisti che sono sul campo, gli steward sono delle specie di tifosi mascherati. Bravo. Purtroppo noi in questo siamo lontanissimi dagli altri modelli, quelli che gli steward hanno messi prima di noi, li pagano di più, gli hanno dato lo status di pubblico ufficiale. Questo è un problema nel controllo delle curve degli ultras e ne abbiamo parlato 1000 volte, però è un problema anche nella gestione intorno al rettangolo di gioco. Ti leggo, prima del traffico, ti leggo come chiude la sua colonnina Maurizio Crosetti su Repubblica di oggi. Ma è successo che una squalifica seguisse una simile dinamica? Il rischio di creare un precedente ingestibile è enorme. Nessun club lo farà mai, ci mancherebbe. Ma pensate al caso di steward addestrati apposta per provocare o denunciare un avversario. Traffico. Le volevo chiedere se condivide il modo di comunicare di Garcia. Chi è? Garcia. Non lo so, io già faccio fatica a trovare il modo di comunicare per me stesso, figuriamo se posso dire se è giusto o sbagliato. Ognuno fa e dice quello che si sente. Convocati. È estremamente seccato e ha dichiarato che vorrà denunciare penalmente questo steward che avrebbe rilasciato questa dichiarazione di un suo presunto tentativo di dare uno schiaffo, ripeto, mai avvenuto, per il quale appunto valuterà Garcia, senz'altro ha già deciso, ma anche la società valuterà l'ipotesi di fare una denuncia penale per diffamazione, calunnia o quant'altro sarà ritenuto utile. Siamo veramente ormai al grottesco. Possiamo immaginare che in tutti gli stati d'Italia da oggi in poi qualche steward potrà decidere di far squalificare calciatori, tecnici, semplicemente dichiarando fatti inventati, come in questo caso, alla Procura Federale. Questo era Valdissoni, sempre voce della Roma di ieri, giustamente imbestialito. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno a tutti. Per completezza di informazione ricordo anche le parole di Garcia: non accetterò che si cerchi di infangarmi, mi batterò con ogni mezzo per difendermi da queste ingiustizie, da queste menzogne, denuncio questo intollerabile attacco al mio onore, tutta la mia carriera di calciatore, educatore, allenatore, testimone un comportamento esemplare che non è mai venuto. Sì, non l'ha presa benissimo, ma ha ragione. Ma per carità, avrà anche ragione. Dopodiché Garcia è come tutti gli altri, ad esempio oggi sui giornali c'è fuori la sua intervista a France Football dove parla ancora di Rocchi, dei gol irregolari, della pressione che la Juve sa mettere sugli arbitri, e lui la sta provando a no, per carità, però se poi ti definisci educatore, sai, secondo me devi anche mantenerlo quello stile. Roberto, vicenda sì, surreale. Circo, è una vicenda surreale molto strana, ma anche molto interessante. Devo dire. Sì, è vero. È completamente inedita, no, per le nostre scene. Perché cercavo di ricordarmi un avvenimento del genere, ma non c'è, che io almeno appunto possa ricordare. Hanno anche detto che è già successo che qualcuno venisse squalificato sulla base di una dichiarazione spontanea di uno steward, non risulta, anche perché se fosse successo avremmo sentito le sirene, cioè tutti avrebbero denunciato questo episodio, perché francamente è una cosa che non esiste. Diciamo che è inedito, perché gli steward intanto non sono tesserati, cioè questo è il fatto clamoroso, che ci sono delle persone, in questo caso se non sbaglio lo steward che ha denunciato il fatto e due testimoni, anch'essi steward, che dicono che Garcia avrebbe cercato di dare uno schiaffo a questo signore. Adesso questo non vuol dire però, ho sentito Baldissoni dice ma allora d'ora in poi tutti quanti possono inventare, e in questo caso il termine inventare, la parola inventare forse è esagerata, perché a quanto pare lo steward ha due testimoni. Però basta una cosa di questo tipo, cioè un non tesserato può denunciare un tesserato. Allora questo è il primo interrogativo, però ricordo anche che lo steward ormai, come sapete, non è più soltanto un signore che passa lì da qualche parte, ma ormai viene equiparato praticamente a un agente di pubblica sicurezza. Sì, sì. Allora mi chiedo, ma se per caso la stessa affermazione l'avesse fatta un poliziotto, il commissario di polizia, anche se non tesserato, l'avremmo accettata sì o no? E guardate che si aprono veramente scenari nuovi. Io non sono né romanista né giuventino, sono come voi, al di fuori, e sto cercando di capire e di osservare. Non prendo posizione, sinceramente. Però ricordo anche che Tosel, che conosco da quando ha cominciato a fare il giudice sportivo, non è uno stupido, non è né tifoso di calcio, viva Venezia, fuma la pipa, beve il porto. Insomma, è una persona dolcissima. No, ma infatti siamo qui per capire. Siamo qui per provare a capire, cioè steward equiparato al pubblico ufficiale, però se ci vengono a dire che qualcuno degli ispettori federali, degli addetti al campo, insomma un graduato qualunque da Federcalcio ha visto qualcosa e ha scritto anche una sola riga, finisce la discussione. Se invece nessuno ha visto nulla e lo steward un giorno va lì e dice il signor Garcia ha cercato di darmi una sberla, non ce l'ha fatta, però mi ha spintonato e magari mi ha anche insultato, mi ha fatto questo e quell'altro, e diamo due giornate a Garcia. Creiamo un precedente giurisprudenziale. Sì, tu crei il precedente, però ad esempio il paragone con il vigile urbano, il poliziotto che magari si trova negli stessi metri e magari si trova a fare una denuncia simile che faceva Roberto prima, è un paragone calzante, perché non necessariamente all'interno di uno stadio ci sono solo tesserati, vale anche per i tifosi ad esempio. E questo è sbagliato, cioè io continuo a pensare che dentro al recinto del campo debbano entrare soltanto persone tesserate e autorizzate ad essere lì sulla base di regolamenti federali, sulla base di un regolare tesseramento, una regolare appartenenza. Solo quelli che sono in lista possono entrare, lo sai, in teoria. Solo quelli che sono in lista. Io come presidente spesso, no, l'ho fatto per 20 anni, non ero in lista, non potevo entrare. Certo. Se voi vedete San Siro, per esempio, a San Siro ci sono i vigili urbani, no, che arrivano, una tradizione anche molto carina, eccetera, eccetera. Poi vedete anche che ci sono tutti gli sgabelli nelle quali si mettono i giocatori squalificati, non si può. Mm-hmm. Non si può, assolutamente. Mentre gli steward addirittura sono obbligati a stare lì, ovviamente per proteggere quindi in questo caso Garcia, per proteggere i giocatori della Roma e per proteggere quelli del Genoa, perché in quel momento c'era il lancio di bottigliette, come sapete, tanto che è stato preso anche Strootman. Comunque siamo di fronte a un inedito clamoroso. Io non vedo l'ora che Tosel, oppure adesso venerdì, ci facciano sapere. C'è qualcuno della procura, ha visto, ha sentito. Sapete che poi c'è un altro aspetto in questa vicenda che definire inquietante, se mai come aggettivo, è un po' troppo dolce. Cioè lo steward dice che qualcuno della Roma, con la tuta della Roma, gli ha sputato in faccia. Gli ha sputato, ragazzi, che è una cosa terrificante. No, ma è ancora più terrificante che Baldissone abbia dato l'ordine di non consegnare i tesserini. io, presidente, so che uno dei miei ha sputato a uno degli avversari, lo prendo e lo squalifico e lo mando via per tutto l'anno. Non lo voglio più vedere. E proprio lo dico a tutti, lo faccio sapere a tutti. Allora mi sembra che sia successo qualcosa lì. Mi sembra, questo è evidente che è successo qualcosa. Perché questo sputo, Baldissoni non ha mai detto non lo sputo non c'è stato. Ha detto io non ho dato, ho detto ai miei di non dare il nome e non dare i tesserini. Sì. Sì, sì, questo, su questo siamo tutti d'accordo. La Roma ha sbagliato, se è così ha fatto una pessima figura, pagherà 20.000 euro di ammenda. Che sì, è però stata, il messaggio è peggio di 20.000 euro. Ma certamente di multa, che è peggio, Giovanni. È una fotografia sbagliata. Si chiama omertà questa, se vogliamo dargli la giusta definizione che verrebbe data in qualunque altro contesto al di fuori di un campo però di calcio. Siamo lì. La forma diventa sostanza. La Roma può anche dire: questo qui ha inventato tutto e io non collaboro con voi, non ti do la lista dei tesserati, perché secondo me tutta la vicenda ha dei contorni che non rientrano in una normale procedura. Potrebbe anche essere così, no? Potrebbe anche essere così, però se io so che nessuno dei miei ha sputato, io dico, io ti do. Allora, se so che hanno sputato, ti do il colpevole. Questa sì. È la prima cosa. Sì. Se so che non hanno sputato, io ti do nome, cognome, indirizzo, eccetera, e poi comunque ti porto in tribunale. Perché sì. non essendo il signore lo steward da un tesserato, io non ho bisogno della clausola rescissoria, lo posso portare in tribunale immediatamente. Mm. E voi sapete che in Italia ci vogliono 10 anni per fare una causa, ma se c'è una società di mezzo, magari in un mese o in 2 mesi si riesce. Sì, però Roberto, il prossimo passo potrebbe essere, come scrive Crosetti, ovviamente non succederà, però potrebbe essere quello dell'addestramento degli steward alla provocazione. Ovviamente stiamo estremizzando, qualcuno estremizzerà da un'altra parte dicendo che è la Roma ad aver ordito tutto per alimentare l'aurea della persecuzione. Tanto adesso vale tutto, no? Sì, vale tutto, però adesso a dire addirittura che gli steward, che sono quelli che ci devono proteggere, perché all'estero è così, e anche adesso, come sapete, la figura dello steward è stata completamente cambiata anche in Italia. Cioè questi sono signori che danno le corse per proteggerci e che adesso potrebbero essere istruiti in qualche maniera per provocare. Va bene, siamo italiani, d'accordo, non ci dobbiamo sorprendere di niente, però se non sbaglio io ormai mi fermo al 7° comandamento, a non rubare, solo quello è nostro. Senti, come immagini cosa farà la Roma adesso? Ma io penso che adesso intanto la Roma aspetti venerdì il ricorso, anche per saperne di più, per cui ne verremo a sapere che cosa hanno visto e detto gli inviati della Procura Federale, che sono quelli che obiettivamente devono relazionare su certo. quello che è successo. Certo. Che sia successo qualcosa ormai mi sembra evidente che è successo qualcosa. Andiamo a vedere esattamente cosa. Certo. Dopodiché, ragazzi, vedete che non si riesce mai a parlare di calcio in Italia. oppure, caro Roberto, anche questo è calcio. No, questo è calcio, soprattutto da noi. Soprattutto abbiamo una lista calcio. Per oggi. Abbiamo gli stage che dopo 24 ore sono già svaporati. Poi abbiamo tante altre belle cose di cui parlare, che sono poco tecniche, poco tattiche. Sì. Comunque io mi aspetto che venerdì ci sia un po' come è capitato l'anno scorso, da un certo punto in poi, per la questione della percezione dei cori discriminatori, una sospensiva per cercare di fare un approfondimento delle indagini. Mi sembra che ultimamente nei casi spinosi la giustizia del calcio si sia spesso rifugiata in questa seconda opportunità per provare a mettere ordine. Poi si perde il foglietto e tutto viene derubricato e chi si è visto si è visto. Ciao Roberto, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao Roberto Renga. Allora ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. Ah, Pardo arriva alle 3 al telefono, col suo mitico telefono dalle 3 in poi. 800 24 0024 invece è il numero per i vostri mitici telefoni. Tutti convocati. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante è quello che dicono. E agghiacciante che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? Puoi essere Andrea Agnelli a suggerire al presidente La Vecchia qualche difetto di Antonio Conte? Forse un po' permaloso. Forse un po' permaloso, vedi, vedi che alla fine. Qualcuno ha avuto il coraggio di. E invece dare i pregi. Vabbè, i pregi. La tenacia sicuramente, questa costante ricerca per la vittoria, ma la tenacia è sicuramente un pregio di Antonio. Dall'altra parte c'è un po' di permalosità quando gli si dice che qualcosa non va come la vorrebbe esattamente lui. Aspetta, è difficile, dai. Il presidente è stato fin troppo buono perché sono molto permaloso. Pensi che il calcio possa essere rotondo? Non lo so, io Conte, cioè, non è che ho avuto rapporti talmente intimi o stretti che posso dire se è permaloso o non permaloso. Questo non lo so. Qualcosa sotto. Per quanto riguarda lo stadio, ci sono delle date FIFA che vanno rispettate, anche perché i giocatori non sono miei, i giocatori sono della Juventus, quindi questo è un confronto che dovrà essere fatto tra la fede del calcio e le società di calcio. Poi io sono molto contento quando i giocatori vanno in nazionale e fanno bene, anche perché la nazionale è un bene di tutti e credo che se la nazionale faccia bene, fa bene per se stessa ma soprattutto per l'intero movimento del calcio italiano. È agghiacciante che un Conte tecnico tattico. Caspita, pensavo che i giocatori fossero di Allegri. Sì, no, io pensavo soprattutto che si fossero messi d'accordo ieri. Oggi ho letto tutti i giornali tranne uno, poi lo citiamo, e hanno detto, beh, hanno litigato, potevi telefonare tu e tu in questi quattro mesi Conte non mi hai mai chiamato. Lo sanno tutti che è permaloso. Ti ridò il mio numero, segnatelo, c'è WhatsApp, fai come vuoi. Però alla fine pensavo si fossero messi d'accordo, poi insomma Allegri l'avete sentito. Su questi tre giorni di stage. Ma la Juventus fa benissimo a non dare i giocatori per tre giorni di stage che non portano, non aggiungono un granché alla costruzione della cattedrale azzurra di Conte. In compenso possono rompere le scatole alla Juventus in un momento delicatissimo in cui la Champions League il 1 marzo gioca con la Roma, mi sembra il 19 al primo match contro il Borussia Dortmund. Allora, ma dov'hai? 12-13 giorni. Ma io i giocatori non te li do, la Juventus fa bene. Solo quelli che fanno l'Europa League esatto. E magari non è un caso che ieri po' di questi allenatori, 3 su 5, non ci fossero. Tra il 1 febbraio e il 1 marzo hanno esattamente 8 date di impegni. Perfetto. 5 giornate allora, di campionato, una di Coppa Italia e 2 turni di Europa League. 8 giornate in 29 giorni, sono una partita ogni 3 giorni e mezzo. Non c'è fisicamente lo spazio per regalarne 3 alla nazionale di Conte. Sì. Tra l'altro, in una stagione in cui oggettivamente non servono. Magari fra un anno siamo qui, ne riparliamo. È l'anno dell'Europeo. Si può anche pensare di fare uno sforzo prima, armonizzando il calendario, facendo un'infrasettimanale in più. No, tra l'altro c'è questo paradosso che lui ieri ha incontrato quasi tutti gli allenatori della Serie A. Io aspetto notizie ad esempio dal Paris Saint-Germain per capire se Blan gli manda Verratti, Sirigu, Thiago Motta, Klopp gli manda Immobile, Rodgers gli manda Balotelli, magari Rodgers non glielo manda Balotelli. Non gli mandano neanche ma chissà che glielo manda Balotelli, che non penso che rimarrà a Liverpool, ma questa è un'altra storia. Ma non gli mando neanche una mail, non il giocatore, non gli mando neanche una mail. Ci sono delle date che sono stabilite, che valgono per tutti e che vanno rispettate, ma a me sembra, lo dicevi tu prima fuori onda, io recupero le parole del dottor Capuano, non sono molto eleganti ma rendono, mi sembra una discussione su chi ce l'ha più lungo. Sì, anche confermi. Perché tra l'altro, confermo, anche perché tra l'altro tra virgolette l'equilibrio mafia capitale attribuita no, a Preziosi assolutamente. Che non ha detto. L'equilibrio tra nazionali e club esiste già, in un'annata dispari come questa i club lasciano i giocatori su 12 mesi quasi 60 giorni, in un'annata pari con mondiale europeo si va verso gli 80, mi chiedo se non sono abbastanza. Soprattutto perché poi FIFA e UEFA quelle date lì le riempono di cose inutili ma redditizie per loro, come la Confederation Cup, come la Coppa per Nazioni che Platini lancia e che andrà a ingolfare ulteriormente i calendari e a rendere tutto più complicato. Ecco, di fronte a questo quadro mi chiedo perché dovrebbero essere un club a rinunciare anche solo a un'amichevole estiva che porta 1 milione di euro per far spazio per far contento Conte, alla nazionale. Che se no, ma non solo solo Conte, Conte e tutti gli altri. Conte. Semplifichiamo, Conte. Salvino, provincia di Forlì e poi Cristina da Roma. Salvino, cediamo la parola alla signora. No, che è caduta. No, c'è la signora Cristina, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno signora, dica. Buongiorno, sono Cristina, chiamo da Roma. Detto che la frase mafia capitale non è stata attribuita al dottor Preziosi, ma no. Lui ha fatto un questo è appurato. È stato un suo chiaro riferimento, vedo che invece le parole di Totti giustamente si beccano sermoni, su quelle del dottor Preziosi si glissa. Amabilmente. No, allora, sono molto Cristina, più gravi. Cristina, chiariamo un punto di informazione. Sul fatto che si è glissato, io avrei qualche dubbio. Glissato, no, perché sono tre giorni che ne parliamo. Allora. No, io ho sentito parlare di Totti ieri, mi sono collegata. Ah. Ho sentito parlare di Totti da Cruciani, no, delle parole di Totti dopo Roma Juve. Ma delle parole di Totti, sono un grande cult e quindi ogni tanto vengono tirate fuori. Però su Preziosi, allora la mia posizione è molto chiara ed è più dura rispetto a quella di Pardo. È vero che lui non ha pronunciato mafia capitale, come è stato riportato, tra virgolette, e questo è sbagliato, da molti giornali, da molti titolisti, da molti articolisti, ed è sbagliato perché lui non l'ha mai detto. Si è scusato e le scuse sono tardive, possiamo accettarle oppure no, non fa una grande differenza. Non ci venga però a raccontare, perché non abbiamo più 6 anni, che il sottinteso non fosse quello. Poi lui non l'ha detto, e questo è vero. Però, insomma, non abbiamo l'anello al naso. Dica, Cristina. Anche le registrazioni audio, da cui uno si può fare una idea palese su che cosa intendesse il dottor Preziosi. Sì, si può fare un'idea, è quello che stiamo dicendo. Si può lui fare ha risposto un'idea. A questa frase, dicendo che a Roma stanno succedendo cose strane e non vorrei che di mezzo ci fosse anche il calcio. Ma certamente faremo la Preziosi Line Technology, perché oggi facciamo la moviola del tunnel delle parole di Preziosi. Sì. No, vabbè, no, ma lui ha detto quella roba lì che io credo porterà anche a un deferimento, anche se non ha citato esattamente le due parole mafia capitale, però insomma era tutto abbastanza chiaro, è da domenica pomeriggio che ne discutiamo. Ma cosa mi dice di Garcia? Di Garcia, no, io ti dico che mi ha fatto molto sorridere il fatto che sia stato scelto Roberto Renga a parlare di Garcia e della Roma, uno che in associazione con un ex terrorista NAR ha creato un falso dossier contro la Roma, insomma. Sì. E a Roma risulta che era un parlock, sì, che poi questa questione in realtà sia stata spiegata nel dettaglio, però se vuole ci informiamo, perché poi voi intervenite, dite queste cose, non è che io e Carlo Genta abbiamo in mente tutto il contrario di tutto. Qualcuno si è anche lamentato perché hai ospitato Tiziano Pieri, ad esempio, dimenticando che Pieri è stato assolto in secondo grado per le questioni di Calciopoli, così rispondiamo anche a qualche amico su Twitter. Renga è un collega stimatissimo, oltre che un amico, quindi direi che possiamo andare oltre, no? Possiamo tranquillamente procedere oltre il processo alle intenzioni. È un eccellente giornalista e mi sembra che abbia fatto un eccellente intervento, un intervento eccellente ed assolutamente equilibrato, quindi non... se poi c'è della prevenzione, signora Cristina, io non su questo non posso sinceramente fare nulla. Grazie comunque. Salvino, provincia di Forlì, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono d'accordo con quello che ha detto il signor Renga, e lo sottoscrivo, ma mi meraviglia del comportamento del giudice Tosel, che con l'esperienza di tanti anni ha dato retta a una persona che non era tesserata, sono giudicando il comportamento di un tesserato, vero o non vero che sia. Non è per caso che ultimamente gli uffici indagini o le procure della Federal Calcio stiano facendo dei colpi? Grazie. A lei, non lo so, che vuole che le dica? I contorni della vicenda sono quelli che abbiamo, cioè noi ci siamo limitati a fare della cronaca e ad esprimere un'opinione. Quello che insomma che mi preoccupa, perché sinceramente mi preoccupa, è la creazione di questo caso giurisprudenziale che potrebbe diventare molto scivoloso, perché per carità poi non succede nulla, poi è un episodio isolato, poi nessuno dirà ad uno steward di andare ad insultare Tevez per magari prendere una manata, nessuno addestrerà alcuno, gli steward capi tifosi, non sono ultra, non sono, per carità, ci guardiamo bene dall'avere pensieri impuri, però è chiaramente un caso limite E anche il fatto che dicano, ma ne sono successi degli altri di casi come questo, ce li vengano a dire. Cioè, perché io sinceramente a memoria non me ne ricordo, e poi sarei doppiamente sorpreso di sapere che qualcuno ha subito una squalifica di un suo giocatore, di un suo allenatore, sulla base di una dichiarazione spontanea di uno steward. E non l'ha detto, è stato zitto, ha accettato il verdetto. No? Non lo so, io non ricordo precedenti, poi magari possono anche essere precedenti che non hanno portato alla squalifica di un tesserato, magari possono aver portato a una multa, ad esempio, per un oggetto caduto addosso a uno steward o a un fotografo o a una qualunque persona non tesserata presente sul recinto di gioco. Però ripeto, per questo esiste poi un secondo e un terzo grado di giudizio, e la Roma lì avrà tutto il modo di far valere le proprie ragioni. Quello che secondo me resta bruttissimo di quella scena che si è vista a Marassi, oltre alla mancanza di sicurezza per i giocatori della Roma che sono stati costretti a passare sotto questo fitto lancio di oggetti, è quello che la Roma ha scelto di fare negando la presentazione dei documenti di gioco su richiesta di ispettori della Federcalcio. Ripeto, per carità, possiamo anche tutto? Chiuderla con i 20.000 euro di multa, però il segnale brutto, secondo me venerdì si prenderanno il tempo giusto per cercare di ricostruire in maniera esatta che cosa è accaduto, quindi trovare una soluzione politica, intendi questo? Può anche essere questo, può anche essere che si cerchino di trovare il tempo per poi andare a capire se davvero il precedente che si crea è un precedente pericoloso o se hanno ragione quelli della Procura Federale, lo scrive la Gazzetta dello Sport, che dicono: attenzione, non è la prima volta che le parole di uno steward vengono usate come riferimento per arrivare a una qualunque tipo di sanzione sportiva. Va bene, tanto vale ricordare quegli altri casi, visto che noi tutti quanti, credo il 97,4% degli sportivi aveva la memoria corta, magari non la signora di Roma che ha chiamato prima, ma molti hanno la memoria corta, quindi tanto vale snocciolare questi episodi così poi possiamo parlarne. Tutti convocati. Subito mio amico Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, ciao Andrea. Ciao. Poi chiedo a Giovanni Capuano di completare l'informazione per la signora Cristina. Sì, informativa direttamente da Palazzo di Giustizia. Palazzo Giustizia. Risulta che poi nel 2012 lo stesso pubblico ministero che si occupava dell'inchiesta su Renga, Marione, Corsi e la questione dei dossier Roma abbia chiesto l'archiviazione perché il fatto non sussiste. Guarda te cosa. Benissimo. Allora, ci troviamo a fare. Questa è cronaca. Andrea Schianchi, di chi è il Parma? Eccoci qua. Di chi è il Parma? Okay, questa è una domanda bruciapelo. Il Parma è dei tifosi, facciamo così. Magari. Il Parma è di una società di cui non si conoscono i reali proprietari ancora, e il rappresentante legale di questa società è questo Pietro Doca, 43enne, sì, di origini albanesi, che è domiciliato e residente a Lodi, gioielliere o perlomeno proprietario di un'azienda di gioielli, diciamo così, a Piacenza. Di negozi a Piacenza. Che ci sia qualcun altro dietro il signor Doca mi sembra evidente. Chi sia ufficialmente non lo so. Non ufficialmente posso dire che quasi sicuramente si tratta di Re Zartaci. Ah, quindi la cordata cos'era? Russo-cipriota, niente? Ma no, guarda, io le cordate secondo me servono solo per impiccarsi. Sì. Io quando sento la parola cordata mi vengono dei brividi. Io credo che semplicemente può darsi che i capitali transitino per Cipro, non lo so, però di fatto credo che l'operazione vada poi in quella direzione, cioè nella direzione di Taci, che tuttavia non intende comparire, non ne conosco i motivi, continua a resistere questo patto di riservatezza e non capisco il perché, però evidentemente avranno le loro ragioni. Sì. Vedremo se venerdì nella conferenza stampa la cosa sarà svelata, ma quello che credo interessi di più ai tifosi del Parma è sapere se questa nuova proprietà intende mettere mano al portafoglio, certo, soprattutto saldare i debiti con i creditori e con i dipendenti, e risottolineo con i dipendenti, perché qua ci sono delle famiglie, certo, che devono mangiare con, certo, questo, certo, con questo lavoro. Dopodiché, altrimenti, sai, fare impresa lo possiamo fare anche io e te, la possiamo come fare, no? Ma se non paghiamo, sì, ci vuole un attimo, compriamo anche il Milan e l'Inter e le mettiamo insieme, facciamo assieme multinazionale anche senza soldi, vai tranquillo. Comunque, tra l'altro, per la cronaca, questo Doca, neopresidente del Parma, è amministratore unico della Taci Oil Italia, società con sede a Miradoro Terme, provincia di Pavia, dalle mie parti, di cui Doca sta gestendo la liquidazione. Quindi questo a maggior dovrebbe avvalorare appunto la tesi che ci sia davvero, davvero Taci. Senti Andrea, non resisto alla tentazione di chiederti invece cosa ne pensi della vicenda squalifica di Garcia. E anche, aggiungo, ne approfitto, cosa ne pensi dell'idea di Conte degli stage giustamente bocciate rispedite al mittente dalla Juventus? Questo è giustamente lo aggiungo io. No, scusa, mi ripeti la cosa di Conte, Conte contro la Juventus, Conte che vuole gli stage, la Juventus che dice a febbraio non se ne parla nemmeno. Allora parto prima da questa e poi dopo arrivo a Garcia. Secondo me è inevitabile che quando un allenatore diventa commissario tecnico vada in conflitto con i club, questo è inevitabile. Sì. Aggiungo anche che tuttavia i club dovrebbero cercare di capire quali sono le esigenze della nazionale. Io non credo che uno stage di 2 o 3 giorni pregiudichi il lavoro di un allenatore di club, ecco, francamente. Dopodiché quello che dico io è: davvero bastano 2 o 3 giorni a Conte per mettere a posto le cose? Temo di no. Per mettere a posto le cose, o comunque per aggiungere qualcosa, esatto. Io temo di no. Allora qui si pone un problema che è, a mio avviso, un pochino più grande. Credo che questo problema riguardi soprattutto la gestione dei calendari a livello internazionale, perché è vero che le nazionali non hanno possibilità di lavorare, ma è altrettanto vero che, a mio avviso, 2 o 3 giorni non bastano. No, ma certo. E bisognerebbe ristrutturare esatto, tutto quanto, e poi parliamo di spazi, club, permessi, eccetera, eccetera. Andrea, dimmi invece, dato ancora un minuto prima di chiudere, cosa ne pensi della squalifica di Garcia e della procedura che ha portato alla squalifica di Garcia? Ma guarda, io leggo che lui dice: accuse infondate, mai commesso gesti aggressivi in tutta la mia carriera, denuncio questo intollerabile attacco al mio onore, eccetera, e capisco la sua reazione, la capisco perfettamente. Mi rendo anche conto del fatto che 2 giornate di squalifica siano piuttosto pesanti. Io immagino, cioè, siccome sono ligio alle decisioni della magistratura, ordinaria o sportiva che sia, se loro hanno ritenuto che c'è stata una tentata aggressione denunciata da uno steward, avranno avuto i loro buoni motivi. Dopodiché a Garcia o Garcia suggerisco, tanto poi non sarò ascoltato, di prendersi questa squalifica, di abbassare un pochino i toni e di pensare soprattutto a fare l'allenatore. Che cosa voglio dire? Che secondo me quest'anno Garcia è andato un pochino oltre. Questo continuo riferimento: abbiamo perso contro la Juventus e sappiamo perché. Allora io dico: se tu non sei sicuro di partecipare a un campionato onesto e sei sicuro che ci sia qualche cosa di losco, benissimo, lo denunci e non partecipi al campionato. Ma se tu partecipi al campionato, a mio avviso, automaticamente accetti le regole di questo campionato. Sì, sì, sì, sì. Tutto chiarissimo, tutto chiarissimo, tutto chiarissimo. Io credo tutto chiarissimo, che tutto chiarissimo. No, non voglio dire che a Garcia abbiano fatto pagare certe parole, lungi da me. No, però sul fatto che stia un pelo uscendo da certi confini, abbiamo capito, quell'arbitraggio Rocchi abbiamo capito, però ripeterlo tutti i santi giorni forse è un po' troppo. Andrea, ti ringrazio, grazie davvero Andrea Schianchi. Grazie a voi. Alla prossima. Voi. Allora, dobbiamo fermarci per Bet Corner GR e poi torniamo con Giovanni Capuano qui in studio e con Pardo che starà arrivando. Quote e pronostici. Mercoledì di calcio internazionale con in campo mezza Europa. Per la Capital One Cup c'è Tottenham Newcastle, si gioca alle 20.45 a White Hart Lane. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, il successo del Tottenham, è quotato 1.85, X a 3.55. 2 invece, quotato 4.10. In campo pure la Bundesliga con il match di cartello tra Borussia Dortmund e Wolfsburg, si gioca al Westfalenstadion alle ore 20. L'1, il successo del Borussia, è quotato 1.85, l'X a 3.60. Il 2 invece, con il successo del Wolfsburg, quotato 4.10. Altra gara da seguire è quella tra Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen. L'1, il successo del Borussia, è quotato 1.45, X a 4.40. 2 invece, quotato 7. In campo anche il girone A di Lega Pro con il recupero d'alta classifica tra Alessandria e Bassano. L'1, il successo di piemontesi, è quotato 2.10, X a 2.90. 2 invece, con la vittoria del Bassano, quotata 3.60. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Egregio Giova, non dirmi che non sei contento della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, perché questa è una notizia di speranza, Giova. Perché vuol dire che c'è qualcuno che crede che nel 2024 Roma ci sarà ancora. Perché io non sono nemmeno sicuro che arrivi intera a Capodanno. Al momento in giro, tra l'altro, più che fiamme olimpiche, io vedo tantissime fiamme gialle. Giova, sai cosa ti dico? Che io voglio essere propositivo. Basta coi gufi. Guarda che potrebbe essere anche l'occasione per proporre nuove discipline olimpiche. Che so, l'appalto sincronizzato, le truffe dal trampolino, il patteggiamento artistico, il buzziball. Il buzziball è stupendo, siamo fortissimi. Vinciamo la COP del mondo. Ma guarda che potrei... Guarda Giova che potrei andare avanti per ore, l'etica leggera, lancio della mazzetta, corruzione a ostacoli, no, corruzione a ostacoli è una stronzata, scusate, quando mai in questo paese abbiamo messo ostacoli alla corruzione? E Matteo Salvini comunque ha già detto che è contrario, lo preoccupano soprattutto i costi, per risparmiare ha già proposto di sostituire l'oro con medaglie di ghisa, no. E comunque l'eccesso di spesa pubblica è un falso problema. C'è chi dice che la Grecia abbia cominciato a fallire proprio per i debiti accumulati con le Olimpiadi di Atene nel 2004. Ebbene, allora noi questo rischio mica lo corriamo. Noi abbiamo iniziato a fallire molto prima di organizzare le Olimpiadi. Crozza però è eccessivamente polemico a Giovanni Capuano nei confronti dell'Olimpiade presunta. No, anche perché non è che gli altri hanno fatto meglio. Io oggi leggevo uno schemino sul Corriere della Sera sui costi delle ultime quattro Olimpiadi. Certo. A Londra, ad esempio, costo dichiarato all'inizio 2 miliardi e 4, costo finale 24. Moltiplicatore 10. Gli inglesi, quelli che sono rigorosi, era l'Olimpiade, attenti, nordici. L'Olimpiade low cost, quella degli impianti riciclabili. quindi a Pechino eccetera. Moltiplicatore 4, 10-40, ad Atene più o meno 2, 4,8-10. Adesso c'è questo dossier che gira secondo cui le Olimpiadi di Roma dovrebbero costare 6 miliardi e 700 milioni di euro, chiavi in mano. Moltiplicatore 40. Non lo so. Ma no, ma dai, ma non siamo così polemici. Le finali olimpiche del tiro con l'arco nei giardini vaticani, te li immagini? C'è la fila per ospitare tutto il resto. E probabilmente andrà via qualcosina da Roma, ammesso che arrivi mai l'Olimpiade a Roma, perché poi si sono illusi tutti che la svolta del CIO significhi poter fare le Olimpiadi per nazione, cosa che assolutamente non è, come Malagò sta cercando disperatamente di spiegare in queste ore, e quindi non potranno esserci le gare in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, a Firenze, in Sardegna, a Napoli, a Palermo. Sì, ma nei giardini vaticani sì, però. Però i giardini vaticani è Roma. È Roma. Almeno come territorio, eh. Comunque, le finali olimpiche di tiro con l'arco nei giardini vaticani è una bella idea. Pare che il Santo Padre la stia prendendo in considerazione. È un'indiscrezione del Times di Londra e se ne saprà di più venerdì, giorno cruciale non solo per Garcia ma anche per le finali di tiro con l'arco. Venerdì è una giornata da non perdere. Posso venire venerdì? Ma certo, no, aspetto con grande piacere. Comunque ci sarà questo incontro e magari poi verrà così inserito nell'ipotetico programma. Intanto io insieme a Cruciani, come ho detto ieri, faccio il tifo per Baku, perché le Olimpiadi deve organizzarsi chi se le può permettere. Oggi si sono candidati gli americani che annunceranno prossimamente in quale città. Pare Boston, la città di Pallotta, che potrebbe avere un clamoroso conflitto di interessi. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come benissimo, va? E tu? Patteggiamento artistico è clamoroso. Il lancio della mazzetta, come lo vedi? Sì, lancio della mazzetta, sì, però il patteggiamento artistico secondo me è imbattibile, veramente imbattibile. Sono d'accordo. Che idea ti sei fatto della squalifica di Garcia per bocca dello steward? Che andremo avanti con i veleni fino alla fine, insomma. Devo dire che poi tensione, polemica, e quindi poi il tipo di clima che c'è in questo momento rende più facile, più possibili episodi anche proprio extracampo, no? Ricordate che anche Juve e Roma ci sono state polemiche per i presunti insomma schiaffi e poi gestacci di quella partita, quindi insomma la situazione non è semplice dal punto di vista della polemica, su questo non ci sono solamente dubbi e aspetteremo per capire insomma l'entità della squalifica definitiva. Certo, mi pare che Baldissoni ieri non l'abbia toccata piano, insomma. No, non l'ha toccata piano, ma a mio avviso anche giustamente, perché se si tratta di capire se esiste questa nuova figura giurisprudenziale per cui uno steward, soggetto non tesserato, anche parificato a pubblico ufficiale, finché vuoi, però può sua sponte andare dal giudice sportivo e alzare la mano e dire scusi, Garcia ha cercato di darmi una sberla. Diciamo adesso non metto assolutamente in dubbio la steward, perché No, ma non, faccio un discorso di procedura, di legge. Il precedente è oggettivamente pericoloso, perché qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra in un finale di partita arroventato, magari non proprio dal nulla, ma in una situazione particolare, un certo tipo potrebbe dire qualcosa del genere. Insomma, credo che dal punto di vista giuridico serva qualcosa di più per poter arrivare a una squalifica di questo tipo. Ripeto, dal punto di vista giuridico mi sembra pericoloso, ciò non toglie che insomma qualcosa, più di qualcosa in questa di partita, da una parte e dall'altra sicuramente non ha funzionato nei toni che ci sono stati, sia dal punto di vista dei gesti fisici, mi pare, che dal punto di vista delle polemiche, quindi ci può stare così, qualche cosa ci può anche stare, una cosa del genere, però mi sembra giuridicamente un po' poco la testimonianza comunque di uno steward per poterla vidimare come squalifica. Il problema è proprio questo. Sì, il problema è questo, poi ripeto, c'è anche il problema che in Italia i referti non sono pubblici, quindi la verità è che le carte tutte intere al momento le conosce soltanto il giudice Tosel, in queste ore le avrà in mano anche la Roma, che ha fatto ricorso anche per avere in mano quelle carte. e quindi davvero venerdì ne sapremo di più. Io ricordo il precedente a proposito di questo discorso del ricorso del Milan per la squalifica di Balotelli, che era stato accusato di aver detto ti ammazzo all'arbitro dopo Milan-Napoli. Milan aveva fatto ricorso per avere in mano le carte, una volta avuto in mano le carte si era resa conto della società che non c'era nulla da difendere e aveva ritirato a quel punto il ricorso. Purtroppo in Italia funziona anche così, cioè nessuno di noi in questo momento, a parte il giudice Tosel, ha in mano esattamente tutti quei referti. È evidente che se ha scritto così si presume che nessun ispettore della Federcalcio abbia scritto una propria testimonianza diretta di quello che è successo, però spiegava anche Roberto Renga, non è che il giudice sportivo è lì da sei mesi ed è impazzito. Evidentemente se ha dato questa interpretazione e poi l'ha sintetizzata in quelle 10 righe, ha delle certezze che sono coltivate in quelle carte. Aspettiamo venerdì. Sì. Aspettiamo venerdì, posso dire una cosa proprio da bambino, da eterno adolescente, una roba veramente, insomma, di una noia che non ha confini. Giovanni è uno dei massimi esperti di tutto ciò che è politica sportiva, leggi, regolamenti attorno al calcio. Sapete, dal mio punto di vista, a me questa roba mi appassiona veramente pochissimo, mi sembra quanto di più lontano invece dalla bellezza del calcio. Poi è ovvio che non è un dettaglio davvero non avere l'allenatore. Non è un dettaglio la definizione di un arbitro, non è un dettaglio la squalifica, per carità, anzi può essere qualcosa che alla fine dell'anno fa anche la differenza, quindi non voglio derubricarlo a però ecco, dal mio punto di vista. Ma ti posso fare una provocazione? Che io non capisco dov'è il problema. Invece di mettere il vice in tribuna con i walkie talkie, fa il contrario. Garcia va in tribuna con i walkie talkie le prossime due giornate e l'abbiamo risolta qui. No, è vero, tra l'altro c'è la famosa storia di pensiero di chi ci vede la partita si vede meglio dall'alto, cioè i movimenti sicuramente si vedono meglio dall'alto, poi chiaramente dal punto di vista della motivazione, delle indicazioni, le cose che puoi dire a un giocatore, dei cambiamenti di posizione, insomma essere a bordo campo, avere la possibilità di colloquiare, di fare dei momenti di time out occulto che ci sono durante qualsiasi partita, secondo me sono un vantaggio chiaramente per un allenatore rispetto a starsene su in tribuna, però insomma sicuramente questo sistema verrebbe preso in considerazione. Senti Pier, altro argomento di giornata, tra l'altro Conte ha parlato anche oggi a Rai Sport dicendo abbiamo toccato il fondo ma si può ancora scavare un pochino, spesso si parla vanvera, i successi si costruiscono insieme eccetera eccetera, aperta polemica su questa storia degli stage. Sai come la penso io, capisco che Conte chiaramente dal suo punto di vista, noi il fondo l'abbiamo toccato e la mia speranza è che questa stagione europea sia invece la stagione della lenta risalita, chiaramente. Appunto, ma allora scusami Pier, allora perché rompere le scatole ai club che in quei giorni di febbraio saranno pieni di problemi, di formazioni, di partite, coppe di qui, coppe di là, perché andare a pretendere di avere i giocatori per tre giorni per aggiungere che cosa? In un anno, per cosa? Io sono d'accordo, mi ricordo benissimo quando quest'estate parlavamo di Conte come una suggestione, io ribadisco quello che ho detto per quest'estate, cioè secondo me da parte della federazione era la migliore scelta possibile fra gli allenatori. Io con lui ho parlato quest'estate e penso di non sbagliarmi nel dire che lui ha accettato questo tipo di incarico soprattutto con la speranza e la convinzione di poterlo interpretare alla sua maniera, cioè in maniera molto diversa rispetto al passato, con un rapporto con i club molto più presente. C'è stata la famosa battuta ieri con Donatoni, con Allegri, non so, l'avete detto sui giornali, potevi anche chiamare tu Prandelli, insomma l'attacco Prandelli, da quello che abbiamo capito. Lui, lo sappiamo, è un martello, non è che siccome adesso fa il commissario tecnico è diventato meno martello, vuole i giocatori a disposizione e farà di tutto in tutti i modi per riuscire ad averli. Chiaramente i club hanno degli interessi diversi. In un anno di dispari ovviamente faccio fatica a pensare che i club non abbiano ragione, però insomma sai, ragione e torto, questi sono due interessi che collidono continuamente: l'interesse delle squadre di calcio che pagano i giocatori, che sì, hanno l'assicurazione per la nazionale, ma insomma è chiaro che se si fa male uno in nazionale poi salta, penso se si fa male uno durante lo stage, pensa che cosa può pensare un presidente di una squadra di calcio che ti paga lo stipendio. Certo, che metti la Juventus che ha il Borussia Dortmund di lì a poco, poi 20 giorni dopo, allora... questo è un punto di vista talmente ovvio. Però insomma, poi questo quindi è un pezzo di mondo, è l'altro pezzo di mondo che è assolutamente ha interessi opposti, che vorrebbe fare cose opposte, è la patria, la nazionale, la federazione, che sa benissimo benissimo di avere pochissimi spazi in un calendario oggettivamente molto molto fitto per poter fare qualcosa, e questo evidentemente insomma è un interesse completamente diverso. Non cambia niente rispetto al passato, cambia che prima c'era Prandelli, che comunque insomma, che poi anche lui era riuscito ad avere gli stage, che però insomma ha uno stile di comunicazione un po' diverso, un po' più non voglio dire passivo, ma insomma un po' più rilassato. Conte invece è uno che va giù piatto su questo argomento e su tutto il resto, quindi però insomma in prospettiva nazionale avere un commissario tecnico così secondo me è un valore. Poi quando andremo agli europei questa cosa qui secondo me è un valore, perché comunque lui fa il suo interesse, che in questo momento coincide perfettamente con l'interesse della nazionale e non coincide assolutamente con l'interesse dei grandi. Fin qui il bilancio è abbastanza simile a quello di Prandelli ad esempio. Sì. Io il valore aggiunto di Conte fin qui non l'ho visto, al di là dell'entusiasmo e di un discorso macroeconomico di cui abbiamo parlato anche quest'estate. Poi io aspetto che Conte dica qualcosa ad esempio sull'intasamento dei calendari che provocherà la Coppa delle Nazioni dell'UEFA, che sempre a spese dei club ha deciso di trasformare le date in un'altra inutile manifestazione che comunque serve per fare soldi, diritti TV, tutto a spese delle società che poi quei giocatori li pagano. E Pier, non è solo una questione secondo me di infortuni, per carità, ma anche questa idea che per un mese tutte le estate si debbano dare i giocatori ad esempio alle nazionali, secondo me è abbastanza una follia. Il Real Madrid ha diritto di andare in Asia a fare una tournée visto che li paga quei giocatori, cioè non riesco a capire perché debba darli al Brasile ad esempio per andare a guadagnare soldi con il Nike Tour, per non parlare delle mogli dei giornalisti tra l'altro. Sto scherzando, chiaramente una battuta, però no, sono d'accordo con te, è evidente che è l'ennesima manifestazione. Poi sai, è molto difficile nel calcio riuscire è comunque un mondo tradizionale, cioè se dal 1930 giochiamo la Coppa Rimei che poi è diventata Coppa del Mondo, insomma la storia la si costruisce col tempo e la si costruisce anche perché ci sono delle manifestazioni che sono speciali. Guarda l'Europa League quanto fatica, perché c'ha una rivalità così forte, così profonda con la Champions, per cui chiaramente è una competizione minore. Immagina questa Coppa qui che cosa potrà essere, che cosa potrà diventare, ma magari in 20 anni diventa una competizione importantissima, bellissima, perché l'importanza di una manifestazione la fa la storia, Pierluigi, la fa la storia, certo. La fanno i nomi di quelli che vi partecipano e che la vincono. Davide Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Genta, buongiorno a tutti. Sì, è vero, anche Prandelli, se vi ricordate qualche mese fa, prima del mondiale, disse che della nazionale non gliene frega niente a nessuno, scusate, anche come l'ha detto. Sì, non una volta ogni due anni, un mese ogni due anni. Io volevo parlare però di Garcia, perché tra l'altro io vi ascolto tutti i giorni, siete fantastici, complimenti, però devo dissentire di un qualcosa che... quello che aveva detto prima il giornalista della Gazzetta, cioè, non riesco a capire cosa significa accettare, se decidi di fare questo campionato di accettarlo, se no non lo fai. Ma cosa stiamo a fare? Noi qui paghiamo degli abbonamenti allo stadio, o Sky piuttosto che Mediaset, per vedere un qualcosa di regolare, non per vedere un qualcosa di non regolare, se no quei soldi le diamo ai nostri figli. Cioè, no, ma era una cosa. No, aspetti, dica. Perché sennò non. Dica. Di abbassare i toni, lui tiene alto l'attenzione, lui sta tenendo alto l'attenzione come faceva Mourinho. Poi lì gli è stata fatta una domanda sul giornale France Football del campionato e lui ha risposto. Non è che tutti i giorni si sveglia a raccontare la storia di Juve e Roma. Beh, quasi. Ha messo Roma a Sassuolo e Genoa a Roma ad esempio, ma nel compito comunque di un allenatore c'è anche quello di parlare con i media, di parlare della propria squadra, quindi tiene alto l'attenzione. Se ci fate caso, infatti, non è più successo niente di clamoroso. Qualcosa è successo a favore della Roma. Un'occasione, una partita. Una di là e poi noi siamo contenti. Ricordo ancora il gol di Muntari di 3 anni fa. Abbiamo capito. Il campionato al Milan, però lo so. Però vede che a furia di ricordare Roma, Juventus Roma, qualcosa si raccoglie, perché funziona così, che poi non sarà sicuramente per quello. Ma comunque, per rispondere, Pierluigi, prima Schianchi ha detto Garcia dovrebbe, ha forzato ovviamente un'opinione che non può essere reale, dovrebbe accettare le regole di questo gioco e abbassare i toni, nel senso che sta davvero facendo una crociata su quella partita, su quell'arbitraggio di Rocchi, eccetera. Questo è vero, però voglio dire, sono un po' le cose che si dicevano di Mourinho nel passato. Mourinho fece il gesto delle manette in campo, la roba. Se vuoi, veramente il trionfo del provocatorio. Io credo che, insomma, gli allenatori di oggi sono chiaramente allenatori in senso tecnico, ma sono anche persone che devono gestire un gruppo, che devono gestire l'ambiente, che devono gestire i rapporti con i media, che devono gestire i rapporti con gli arbitri, e quindi ognuno ha la sua strategia. Io quello che noto rispetto al passato, rispetto all'anno scorso per esempio, è che si sono un po' invertiti i ruoli da questo punto di vista di Juve e Roma, nel senso che la Juve è passata dalla leadership di Conte, che insomma spesso cercava la polemica, mi ricordo dopo una partita a Parma un paio di anni fa abbastanza feroce, insomma fa parte dello stile del personaggio, è passata da Allegri, che comunque ha un carattere, non è uno che le manda a dire, però insomma ha un carattere da questo punto di vista un po' più sereno, vogliamo dire, e Garcia ha cambiato molto atteggiamento. Ora poi il fatto che l'atteggiamento sia cambiato, perché alla sesta giornata di campionato, con due squadre a quota 15, Juve-Roma è una partita che l'ha lasciato evidentemente molto deluso e quindi da lì abbia cominciato la crociata, questo ci può stare. Però insomma il dato politico è che rispetto a un anno fa chi suona la gran cassa, chi cerca di alzare i toni, chi esce dall'aspetto strettamente tecnico, più la Roma della Juve, mentre in passato era il contrario. Ma ripeto, sono tutti meccanismi psicologici, cioè non c'è niente di male, non c'è niente di male se lo mette da una parte o dall'altra. Poi chiaramente ognuno ha il suo stile, ognuno ha la sua leadership, c'è quello che è più muscolare, c'è quello che protesta di più, quello che protesta di meno, c'è quello che piange di più, c'è quello che piange di meno. Poi gli allenatori si misurano in campo, no, poi, i risultati che riescono a ottenere. Però una parte, scusami, parte dei risultati li ottengono anche attraverso questo, che è un lavoro di stimolo che può essere fatto nei confronti dei giocatori, che può essere fatto nei confronti degli arbitri e dell'ambiente. Sì, è l'intera gestione del gruppo e uno sceglie la strategia anche mediatica che vuole, perché è inutile nasconderla, è un aspetto importante. Saluto Giovanni Capuano, che ci deve lasciare per ora, ma torna venerdì perché abbiamo un giorno. Torno venerdì perché questa storia del Vaticano, del Vaticano ti ha sconvolto. L'ha preso. Ti saluto con questo messaggio: se non avessero licenziato Mazzarri, lo avrei denunciato per un tentativo di schiaffo al bel calcio. Lo scrive un vecchio steward di Milano. Che avrà visto Handanovic migliore in campo in Chievo-Inter. Ciao. Ciao. Tutti convocati. Pierluigi Pardo sempre collegato con noi, Fabio da Milano in linea. Fabio, buongiorno. Buongiorno, siete grandi, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Tutti Dica. I giorni corro col cane fuori di corsa a portarlo fuori, mangio di fretta in ufficio per ascoltarlo mentre troppo troppe telefonate. Io un giorno voglio fare. Pierluigi, facciamo una volta una grande inchiesta su cosa fanno gli ascoltatori di Tutti i Convocati. Diventano tutti. Bellissimo. No, sono in una mega riunione, non posso rispondere, scusate, ci sono lì che vi ascoltiamo. Sentite, due cose veloci. Allora, un paio di settimane fa parlavate del fatto che in Europa ormai il campionato spezzatino, partite tutte in notturna, non sono d'accordo. In Germania e in Inghilterra, secondo me campionati di base, campionati veri, le partite in notturna sono due alla settimana, il Friday night in Germania e il Monday night in Inghilterra. È solo in Italia e in Spagna che si gioca di sera, di notte, tutti i giorni, tutte le settimane, eccetera eccetera. Non so se siete d'accordo, però nei paesi più importanti si gioca molto meno alla sera che non confronto. Diciamo che si gioca nel tardo pomeriggio, ed è una soluzione che a me piace. Cioè il tardo pomeriggio, sinceramente a me l'idea del posticipo 20:30, 20:45 non fa impazzire. Io sono bulimico, io capisco perfettamente, no, io giocherei a ogni ora del giorno. Quando è De Laurentiis qualche anno fa? Mezzanotte, giochiamo a mezzanotte. Bellissimo, giochiamo a mezzanotte, ma a parte tutto, insomma, a me piace tutto quello che massimizza la quantità di partite da vedere, poi chiaramente non è che si possono vedere tutte. Penso che come tutte le cose della vita ci sono pro e contro. È chiaro che era Roma, io tra l'altro adesso sono in macchina con Beccarossi, che fra poco vi parlo, che era uno che ai tempi della Pinetina, invitata dai giornalisti, praticamente facevano il tragitto insieme da quando si cambiava a quando si andava ad allenare, quindi da quel punto di vista lì era chiaramente un calcio diverso, romantico, il calcio inizia alle 14.30 d'inverno, alle 16 d'estate, per carità. Detto questo, oggi secondo me vediamo, anche grazie alle televisioni, tutte insomma, però vediamo, se vogliamo possiamo vedere più partite. Mm-hmm. Il calcio internazionale è diventato un elemento culturale che tante persone vedono, i giocatori, vedere le grandi partite estere è una cosa fantastica, vedere la Champions League anche quando c'è l'Italia è una cosa fantastica. E in generale, insomma, da noi sì, c'è un po' di spezzatino, ma mi sembra una cosa abbastanza positiva, alla fine abbastanza positiva, insomma. Poi non è che sei obbligato. Sì, nessuno te l'ha ordinato, no? Sono sempre mogli di qui sopra, perché chiaramente la quantità di partite esaurisce le serate. Però, insomma, a me non dispiace, a me l'idea che, insomma, se c'è una grande partita come Inter che si gioca alle 20.45, la gente che andrà allo stadio il pomeriggio, la sera quella partita se la può vedere, che c'è di male? No, si può discutere su, sai, Pier, si può discutere su aspetti di secondo piano, sugli orari, essenzialmente aspetti di secondo piano. L'ultima partita giochiamola come in Inghilterra alle 17.30 anziché alle 20.45, che magari poi ci vanno i bambini che il giorno dopo devono andare a scuola, tutte queste cose qui. Ma mi sembrano, sullo spezzatino nessuno discute, perché ormai è pratica comune in tutto il mondo, quindi inutile star lì. Il calcio alla domenica alle 2:30 non lo vedremo più. La vittima di questo mi piace, è sicuramente. Chi è che non ti sento più? Secondo le migliori tradizioni? Cambiamo telefono, come sta andando? Non t'ho più sentito, l'ultima cosa che hai detto non t'ho più sentito. Però bene, adesso, no? Piantanida, scuote la testa. È praticamente la risposta sportiva apparente. No, scusa, ma... Pier? Dai, mi senti. Cosa vuoi che ti dica? Ti sento, però diciamo a intermittenza, come le lucine dell'albero di Natale. È il quarto giorno del telefono nuovo e per ora non ci sono mai stati problemi. Insomma, volevo... Dai. Stavo quasi per casarmi. Adesso dai, stai tranquillo, ce la possiamo fare. Il voto da offerta, dico, è la grande vittima, e questo chiaramente è un peccato di queste situazioni, perché è chiaro che se vai a giocare magari a 500 km di distanza il lunedì sera perché c'è stata l'Europa League, il martedì lavora, guarda, ma se poi saltano anche qualche trasferta fa niente, guarda, mi viene quasi da dire forse meglio che stiano a casa a guardarla in televisione senza magari andare in giro a piantare casini, e mi fermo qui. Saluto Raffaele Auriemma invece. Sei contento, Piero? Buongiorno. Buongiorno. Beccalossi qua, C'è Beccalossi, un uno contro uno Auriemma Beccalossi, come lo vedi? Passo. Vediamo se sente. Ma Beccalossi, ciao. Evaristo! Io sto bene, devi tornare a giocare tu per far salire di nuovo l'Inter in classifica. Ma ci ha messi male, se devo tornare io, già pensare al futuro. Comunque è ufficiale, Pier sull'aereo è più indisciplinato del Pecca quando giocava a calcio, ha cambiato 4 posti. Sì, fa sempre così. Beh, fa sempre così. Non dà punti di riferimento, lo trovi in fondo, sull'ala, ti leggo adesso. Beh, come lo vedi il Napoli? Lo vedo come squadra, l'ho sempre vista bene dall'inizio, secondo me può fare molto di più, però lì non vorrei andare a intaccare il lavoro e la professionalità di Benitez, però credo che si possa aiutare un potenziale di squadra come a Napoli. Sì, io credo che debba fare molto di più, Don Raffaele, molto di più. Mi allineo a quello che ha detto Evaristo, il Napoli è una squadra che quantomeno deve chiudere il campionato al terzo posto, però siamo soltanto alla 15ª giornata, è vero che la classifica racconta il 7º posto assolutamente poco soddisfacente, anzi per nulla soddisfacente per la piazza e per la società, ma è anche giusto sottolineare che il terzo posto dista solo 2 punti, il Napoli affronterà domani sera il Parma, con l'auspicio che possa tornare grande con le piccole, poi il 6 gennaio a Cesena, e quindi già la classifica potrebbe essere raddrizzata, atteso che questo inizio di stagione è stato molto deludente, perché bisognava fare molto di più. Senti, invece, Raffaele, per par condicio come vedi l'Inter? Non ti ho sentito, scusa. Per par condicio, ti ho chiesto a Beccalossi come vede il Napoli, te chiedo come vedi l'Inter. No, ma io l'ho detto anche altre volte, io sono strafelice che l'Inter abbia esonerato Mazzarri, perché così almeno abbiamo una concorrente in meno per il terzo posto. Perché questa squadra la può allenare solo Mazzarri. Nulla contro Mancini, anzi, lo considero uno dei migliori allenatori al mondo, però non è la sua squadra questa. Evaristo, becca di questa. Vi do no, ma è un dato di fatto, il Maggio non è che può risolvere tutti i problemi, però almeno si è tornati un po' a farci battere il cuore con tutti i problemi che sappiamo di avere, perché la squadra secondo me va rinforzata. Però mi rivolgo al mio amico Raffaele, gli dico scusa, piuttosto di pensare a Parma, all'altra partita così, ma vi siete chiesti che il Napoli prende troppi gol? Nel calcio si può anche sopperire a quella cosa lì con dei grandi giocatori che ci sono magari da metà campo in su. Se prendi tanti gol probabilmente c'è da provare un qualcosa di diverso per prenderne meno, o no? Perché ti ripeto, da metà campo in su con i giocatori che ha Napoli, io aspetto solo che prima o poi il gol arrivi. Ci stiamo provando un po' tutti a convincere Benitez a fare qualcosa di diverso. Magari se glielo dici tu, ascolta. No, non ho questa presunzione. Almeno 200 perché... persone gliel'avranno detto. Lui continua imperterrito, quasi in un fare zemaniano, mi permetto di dire, per cui conta il suo principio, non certamente il risultato. Per cui bisogna dargli i calciatori che vuole. Probabilmente sì, il Napoli potrà anche vincere lo scudetto, ma se il presidente De Laurentiis non riesce a comprare i calciatori che Benitez ha in mente di utilizzare per il suo modulo, ma a quel punto credo che sia meglio per tutti, per Benitez, per De Laurentiis, per il Napoli, che si cambi allenatore l'anno prossimo, che si affidi squadra un tecnico un po' più malleabile e che lavori con il materiale che gli mette a disposizione la società. L'anno prossimo o a Doha? No, guarda, è una ipotesi che io non voglio neanche lontanamente immaginare. Sarebbe il vero disastro della stagione se Benitez andasse via da Napoli, se lasciasse la squadra in mezzo al guado. Perché, come ho detto per Mazzarri, lo dico per Benitez, solo lui oggi può rimettere a posto in Napoli, purché ci sia un chiarimento globale con tutto il gruppo, spero sia stato fatto già ieri sera nel corso della cena, altrimenti sarà uno stilicidio, perché due partite le vinci, tre le vinci, poi ne pareggi quattro dopo. È chiaro che così poi diventa complicato centrare il terzo posto in una stagione nel corso della quale è vero che c'è un appiattimento verso il basso, però quelle che erano di media classifica stanno avendo un rendimento che io non mi aspettavo, in primis la Sampdoria e il Genoa. Certo. Un'ultima cosa, Raffaele, ho sentito ieri di un possibile scambio tra Higuain e Balotelli. Ma no, ma dove l'hai sentito? Tanti a Zelic, Zelic, ma certo. Sì. No, me l'ha detta Ferrero, me l'ha detta Ferrero. È una bellissima battuta in pieno stile Ferré, perché perfetto, va benissimo. Allora Balotelli andrà all'Inter, facciamo così. Balotelli non so dove andrà, ma Higuain certamente resterà a Napoli. Grazie Raffaele. Grazie a te, un saluto a ciao, tutti. Ciao Raffaele Auriemma, hai capito Beck? Balotelli te lo ribecchi tu. Il maggio è stato quello che l'ha fatto esordire. Sì. I migliori risultati li ha avuti con la gestione del Mancio. Chiaro che tutti aspettano questo famoso salto di qualità, però dipende dal giocatore ormai, cioè tutti ci hanno provato, tutti l'hanno coccolato, a questo punto non c'è più da parlare, ma c'è da proporsi. A livello calcistico io ho un giocatore che a me è sempre piaciuto molto, però sì, anche a me. Però sono troppi gli anni dove lui deve decidere se fare il calciatore e essere protagonista in campo e poi fuori, non viceversa. Quindi le grandi qualità, io una chance la darei ancora, se sì, in un certo modo. Il problema è che secondo me il 90% della tifoseria interista, che alla fine orienta le decisioni, anche l'abbiamo visto, no, con Guarin Vucic, l'abbiamo visto con Mazzarri, Mancini eccetera, orienta, è inutile far finta di no, le decisioni della società. Io credo che il 90% degli interisti non vorrebbero mai e poi mai il ritorno di Balotelli a Milano. Quindi... Chi sta parlando? Questo non lo so, perché sai, il calcio è molto strano, si dà per scontato tante cose, quando invece magari il campo, il gesto, essere protagonisti fanno dimenticare certe cose, anche se il gesto allora fu pesante. Però se vuoi decidere di arrivare ai risultati, vuoi darti fiducia a determinati giocatori, ci sono qualche rischio, cioè, però se mi aiuta a vincere bisogna essere bravi anche a gestirlo. Sì, sicuro. Beh, io adesso ho il traffico, tu viaggi con Pardo, fate voi. Sì, pensavo di viaggiare con persone un po', però mi tocca Piero. Ti tocca. Tanto non mi sta sentendo che è avanti 5 metri, però... Dove ti porta a mangiare? Sto parlando malissimo di Piero. Dove ti porta a mangiare? Ma no, allora c'è questa intervista che faccio qui in Filoandria. Mi hanno sai quando hanno detto alla seconda R di burrata? Sì, ce l'avevi già in tasca. Vengo su, è stato proprio, capito? Quindi sei lì per raccontare comunque al pueblo i dettagli dell'operazione Cassano-Torino, giusto? Certo, sicuro. Oggi ho letto che Cairo ha smentito, vero? Allora, poi ti allora aspetta, lui che Giovinco, aspetta, però, aspetta, però, aspetta, aspetta, che c'è il traffico e poi ti vado a ripescare le dichiarazioni del signor Cairo. Stai lì, traffico. Ci ho messo la faccia, ci ho messo 10 anni della mia attività, ci ho messo il mio tempo, non mollerò mai Napoli, non lo mollerò mai a nessuno, continuerò a lavorarci. E quindi da questo punto di vista dico, lasciatemi lavorare. La coppia vincente del Napoli è Rafa Benitez e De Laurentiis. Mi sembra la cosa più ovvia e più naturale. Tutti convocati. Con tranquillità si parlerà di tutto quello che potrà essere importante per rinforzare questa squadra qua. Potrebbe anche esserci un rinforzo Balotelli. No, io credo che Mario in questo momento stia bene al Liverpool, e stiamo parlando di un grandissimo campione che ha vissuto con noi dei grandi momenti, però adesso credo che è al Liverpool, sta bene, è la cosa più importante, ripeto, è trovare la cosa migliore per questa squadra qua. E questo era il Pupi Zanetti. Zanetti è proprio, cioè, è tipo il premio della bontà, cioè dice delle cose tipo Balotelli sta a Liverpool, sta bene, sta ma bene, no, non è vero, sta bene da morire, Balotelli a Liverpool se la gode come un matto, però insomma, sta giocando un calcio meraviglioso e soprattutto è molto sereno. Allora, Cairo sul mercato del Toro: per Giovinco vedo l'operazione difficile, non voglio cominciare una telenovela. Cassano ha qualità, ma da qui a dire che il Torino è interessato ne passa. Pazzini ha caratteristiche che non si adattano al nostro gioco. Zárate, ottimo giocatore come tutti quelli che stiamo valutando. Io non credo che sia così folle da prendere Zárate, che eliminerei. Pazzini non adatto al nostro gioco, ok. Rimangono Giovinco e quell'altro. Dopo questa dichiarazione rifacciamo... Dopo questa dichiarazione pensavo bene, perché avevo visto che aveva chiuso a Cassano. No, ha qualità, qualità, virgola. Ma da qui a dire che il Torino è interessato, ne passa. Ha ragione, noi abbiamo raccontato il riassunto delle puntate precedenti. Questa cosa è nata da noi, da una telefonata di un ascoltatore tifoso del Torino che aveva detto: a chi potrebbe servire al Torino? Un attaccante, su questo non ci sono dubbi, siamo tutti d'accordo. Potrebbe servire Pazzini, ma anche Cassano. Io mi ricordo proprio il momento, ho detto, anche Cassano non potrebbe anche. E tu mi hai chiesto: ma sai qualcosa? Io ho detto, assolutamente no, è un'idea che sto dicendo da giornalista, insomma, da appassionato di calcio. E da lì poi, no, c'è stata proprio incredibile. Le strade del giornalismo sono incredibili, però insomma, io ribadisco, secondo me potrebbe anche essere utile. Io avrei comunque un titolo. Cassano a qualità, siamo ai dettagli. Sta cercando casa. A Parma si capisce che c'è il gioielliere albanese residente a Lodi con la gioielleria a Piacenza, eccetera, eccetera. Io sinceramente vedo Cassano sulla tratta, per Torino. Io lo vedrei bene a Torino. Altre voci di mercato dal Brasile dicono Pato in Viola a gennaio. Fosse così, beh, il prossimo passo potrebbe essere il ritorno di Adriano, sempre alla Fiorentina. Beh sì, però Pato, guarda, Pato è stato, Pato è una storia incredibile ora di Pato, perché mi ricordo quello che mi diceva Ancelotti fin dall'inizio, quando non poteva giocare si allenava e mi raccontava che era più forte di Kakà, sì, almeno sì, dal punto di vista proprio della velocità, no, del talento puro. E poi ha fatto delle cose eccezionali, ma abbiamo anche poi avuto le prove, le dimostrazioni, sì, pratiche, no, ma le prove Pato ha fatto delle stagioni incredibili, poi ha avuto questa serie di infortuni, questa fragilità incredibile che lo ha, che è stato il suo problema, e pure quello poi alla fine inevitabilmente fa parte del talento di un calciatore, fa parte del kit tecnico di un calciatore, perché se sei molto fragile dal punto di vista fisico, al di là ovviamente della sfiga, no, dell'infortunio di tipo traumatico, dove ovviamente che vuoi dire, cioè quello fa parte dell'imponderabile della vita, ma quando hai così tante ricadute, così tanti infortuni e un certo tipo di fragilità, vuol dire o che ti hanno allenato male, ci può essere anche questa ipotesi, che a un certo punto della sua carriera Pato abbia esagerato nei carichi di lavoro e quindi la sua muscolatura si sia sviluppata in una maniera poco armonica rispetto a quello che era, diciamo, il suo punto di partenza, e questo è un dubbio che onestamente abbiamo, perché è veramente incredibile quello che gli è successo, oppure semplicemente nel suo destino, nel suo DNA, nel suo kit fisico c'è questo problema, sì, questo problema che lo ha reso un giocatore sicuramente meno importante, meno decisivo di quello che il talento direbbe, perché insomma... E per la Fiorentina un'altra punta a rischio sarebbe esattamente l'ideale, il calcio sui maccheroni. Non so, però a Firenze sono giustamente, hanno palati fini, sì, insomma non... io penso che ci sia una questione anche di Stefano, e tra l'altro la Fiorentina adesso si è ripresa, sta facendo un campionato direi discreto, partendo sempre dal presupposto che i due giocatori che dovevano fare la differenza per motivi diversi non l'hanno fatta, Pepito e Gomez, e quindi alla fine tutte le stagioni della Fiorentina negli ultimi 2 anni le dobbiamo raccontare così, insomma, le dobbiamo raccontare con l'asterisco, certo, prima di Fiorentina Livorno che giocatore era e quanto era decisivo e poter diventare capocannoniere, certo. E dove sarebbe arrivata la Fiorentina? Sicuramente più in alto, quindi ci sono anche questi elementi, ovvio la Fiorentina ha bisogno di certezze, però Firenze è una grande piazza di grandi conoscitori di calcio, io credo che loro se ti abitui al caviale poi è difficile. Però a me il caviale non piace, però vabbè, comunque si è capito, no? ti puoi buttare sulla ribolletta, dai. Ludovico da Udine, buongiorno. Meglio la ribollita che il caviale, tutta la vita. Ludovico, buongiorno. Buongiorno a voi, dottor Genta. Io volevo, torno un po' indietro e mi dispiace arrivare tardi, volevo fare solo una piccolissima precisazione sul dottor Tosel, che ha lavorato a Udine un periodo, e proprio poco tempo fa, parlando con un pizzaiolo, con un gestore di una pizzeria a Udine, mi diceva che il dottor Tosel non è un super tifoso di calcio, è un iper tifoso della Juventus. Tutto qua. La ringrazio, complimenti per la trasmissione, buongiorno. Grazie. Tanto per fare così un tanto po' di, giusto per non fare polemica, per non mettere zizzania. Tanto io, guardate, io su questo per posso chiudere dire, il programma, no, con un, io su questo mi sento dire una cosa cioccolatina. In generale, adesso non so di che squadra sia Tosel, se ha una squadra del cuore, però è chiaro che anche gli arbitri hanno una squadra del cuore, per esempio, no? I calciatori hanno una squadra del cuore. Poi quando scendi in campo e il tuo lavoro, cioè non è un dettaglio, è la professione di un giudice sportivo, di un giornalista, di un calciatore, di un allenatore, di un arbitro, cioè ti giochi la faccia ogni volta, per cui per quanto tu possa aver avuto delle simpatie o possa avere delle simpatie per una squadra, e poi insomma è ovvio che a quel punto della vita, se non sei completamente scemo, quello diventa un dettaglio, certamente, diventa clamorosamente un dettaglio, poi magari hai altri condizionamenti che ti arrivano dall'esterno, ma il condizionamento del cuore per uno che fa il giudice sportivo è che ogni decisione non è che non si sa chi la fa, ma fa lui, sì, insomma, dai, sarebbe gravissimo, ma sarebbe completamente irrazionale. Stesso discorso per gli arbitri, non è che se sei tifoso una squadra vai lì, la fai vincere. Di che parliamo? Cioè, ormai è tutto registrato, ci sono telecamere. Ma sai, c'è un grande distacco tra chi fa il tifoso e chi invece fa un certo mestiere per professione. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao, salutaci, ciao. Il Beck. Ciao Pier. Saluta. Ciao. Becca, ciao Beck, ciao. Qualcosa, ciao. Di Bresciano, ciao. Vale a tutti. Balafus, si dice Balafus? Barlafus. Guarda, adesso dopo salute and touch. Aspetta, faccio dire. Salute and touch, va bene. Salute and touch, ve lo marco io, Pierre. Grazie. Beh, te lo affido. Te lo affido, lo affido a te, che mi serve integro domani alle 14 quando torna Tutti Convocati. Ciao. Allora, le cose stanno così. Io ti do 100.000 dollari. Tu mi firmi l'atto di vendita della tua palestra. Fine della storia, punto. Se pensi veramente di poter venire qui a comprarmi, White, sei molto più scemo di quanto pensassi. Non credo di essere più scemo di quanto pensassi che io pensassi che tu pensassi fossi una volta. Senti, Peter, lo so com'è. Davvero, anche se abbiamo avuto dei rapporti burrascosi, siamo più o meno simili. Siamo due leader. E mi piace quello che hai fatto con la palestra lì da te. Davvero, mi piace molto il tono. Io non sono ok, tu non sei ok, ma è tutto ok che hai messo in piedi. Puoi essere grasso purché tu sia felice dentro. È perfetto, funziona. E ti adorano. Quanto ti adorano. Sei loro Fonzi, Peter. Ehi! Hey.